belli di casa, si comincia con questo rock and roll di mattina che ci fa sempre bene, così giusto per sperare al fatto che ci sia un po' di energia in più rispetto a quella che ci aspettiamo, quella che dovremmo ricevere. In realtà non è così, perché stamattina è veramente, veramente, veramente tanto dura, molto dura. Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda, ma te sputo, che fai? Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno, come dicevo, buongiorno a tutti gli amici di Runtime Radio che alle 7 di mattina sono qua per farsi svegliare dalle nostre parole, dalla nostra musica, dai nostri sottofondi, dai nostri ritmi, da tutto quello che è annesso e connesso con le nostre meravigliose trasmissioni radiofoniche che aprono la giornata di questa bellissima radio, sempre più live, sempre più radio, che noi amiamo tantissimo, e più passa il tempo e più amiamo di più. Tant'è che insomma ci stiamo impegnando per fare in modo che diventi qualcosa di più, magari insomma anche non soltanto un hobby, magari, no? Anche se per ora resterà sempre un hobby. Detto questo, dicevo nella pre-intro che sarà dura, e infatti questa puntata di Buongiorno un cazzo andrà in onda in formato ridotto e limitato, perché questa notte io non ho praticamente dormito e quindi sarà dura, e non ho molti temi di cui parlare, anche se qualcosa c'è, e quindi me la prendo un po' più comoda rispetto al normale. Diciamo che facciamo quelle puntate che sono un po' più discorsive, parliamo un po' più di cazzi nostri, nel bene e nel male, insomma, quindi cerchiamo di fare una cosa, di portarla a casa. E intanto vi lascio subito col primo brano. Forse sempre, perché lo sapete che qui c'è un problema di mouse prima di tutto. Quindi se volete sostenere Runtime, comprate un mouse a Runtime Radio, che ne ha bisogno, ne ha bisogno. E niente, che bello quando la mattina le cose non funzionano. Proprio veramente bello, sono soddisfazioni incommensurabili proprio. Allora, non so come risolvere questo problema come al solito, e quindi metto per ora una canzone di quelle scamuffe. I'm floating around. eccoci qua. Allora, ragazzi, io riflettevo proprio ieri, insomma, durante le varie sessioni che ascolto, diciamo, l'ascolto in background che tengo di Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. Mi piacciono i jingle con gli inni tedesco, inglese e francese. Ringrazio Simona Ortolani per questa idea, insomma, che lei ha fatto per farmi uno scherzo a me, poi in realtà mi sono piaciuto talmente tanto che basta, l'ho tenuta, insomma, quindi alla fine ce le siamo tenute, ma non so per quanto tempo, perché magari questi sono pure dei periodi strani dove tirare fuori cose, insomma, dove ci sono gli inni, le questioni. Comunque riflettevo con Michela sull'ascolto di sottofondo, c'era capitata una canzone terribile. Era una canzone russa, però era una canzone terribile, cioè, nel senso, quando le due cose sono connesse in qualche maniera, sono connesse quando tu c'hai una canzone che è brutta e la insomma fa schifo e sta lì e dici ma fa schifo. Però ciò non toglie il fatto che abbiamo levato moltissimo una quantità di canzoni russe dal nostro database che facevano schifo fondamentalmente. Però sta cosa mi ha fatto riflettere, no? Ma mi ha fatto riflettere in connessione al fatto che ieri mattina è andata alle 8:30, come tutte le mattine va una puntata di 10 milioni non leggono Nietzsche, tutta incentrata sulla Russia. Voi sapete che Simona alla fine è molto fissata con la letteratura russa, e praticamente si parlava del coro dell'Armata Rossa, dell'inno russo, insomma, del fatto quanto, insomma, emozionasse anche musicalmente quando è caricato molto e cantato dai grandi cori, no? E mi ha fatto riflettere quanto in realtà basta poco, veramente poco, nel vedere come ti cambia il mondo da sotto i piedi. Perché ieri, mentre che ascoltavo questa puntata, mi rendevo conto che siamo talmente condizionati un po' da tutto quello che succede, anche dal modo in cui vengono trattati determinati argomenti, che mi sono sentito lì per lì anche un po' a disagio. Cioè, dice, mannaggia, forse questa puntata non era il caso, no, di metterla su. Magari sarebbe stato il caso di evitare, insomma, questo tipo di trasmissione. In realtà poi alla fine ci penso e dico, vabbè, ma sti cazzi, cioè, nel senso, a parte che comunque sono le trasmissioni storiche che noi comunque mandiamo e che abbiamo comunque inciso, no? E che comunque poi alla fine meritano di essere, cioè, non è che vanno cancellate perché si parla di un argomento che oggi magari sembra un po' più scomodo, no, da un certo punto di vista. Però poi questo mi ha fatto riflettere anche sul fatto che abbiamo levato praticamente dal database quasi completamente tutte le canzoni russe che abbiamo. E sebbene queste due cose non sono così collegate, perché le canzoni russe noi le abbiamo levate nei mesi, cioè abbiamo fatto un lavoro, ogni volta che sentivamo queste canzoni terrificanti le levavamo. Però poi mi sono anche interrogato, ma se io oggi ci avessi delle canzoni russe, anche magari gradevoli da ascoltare, belle, magari un bel rock, le terrei? Oppure anche io poi alla fine finisco per essere vittima di quel revisionismo alla Kevin Spacey che abbiamo visto, insomma, insomma, alla fine dilagare nel momento in cui escono fuori delle cose che sono, diciamo, scomode idealmente, sono scomode politicamente, e allora tendiamo a fare perlomeno per un breve tempo una sorta di repulisti, di cancellazione, di dannazio memoria, come diciamo noi, e così come hanno fatto gli americani o come fanno i media americani, no? Dove a un certo punto questa cosa sembrava aver preso il sopravvento, ci spaventava anche, no? Perché allora se questo poi dopo diventa un metodo, allora quante cose si perderanno, quante opere altre generazioni non conosceranno, se poi aumentiamo la lista nera delle cose scomode messe da una parte perché non è il caso, insomma, di far ascoltare. Ecco, questa è una cosa sulla quale mi sono trovato a riflettere a un certo punto, perché non voglio cascare anch'io in questa, non voglio fare uno di quei discorsi che deve essere così, allora deve essere forse al contrario, però non voglio cadere io in questo tipo di trappola, perché alla fine finiamo per essere come tutti gli altri, e siccome che essere non professionali, totalmente indipendenti da un punto di vista editoriale, ci permette di poter gestire con totale autonomia e in coscienza le cose che noi facciamo, è giusto che noi si faccia attenzione a questo tipo di scelte. Altrimenti, e questo è un esempio che io ho fatto tante volte, si finisce per diventare come quel regista indipendente che è uscito dalla scuola di cinema, che per far vedere che è indipendente e che è strano fa il film alla Tarantino, ossia il 99% dei registi che escono dalle scuole di cinema, per far vedere quante ne capiscono e quante ne sanno di cinema. Però poi alla fine sono vincolati, diciamo, dal desiderio di assomigliare a qualcos'altro, del desiderio di allinearsi a qualcosa. Quindi quando, cioè, tutto il contrario di quello che dovresti fare quando sei indipendente, che dovresti essere libero e sperimentare, non allinearti alla corrente, no? Ecco, questa è una cosa che, devo dire la verità, mi ha fatto molto riflettere. E ci pensavo l'altro giorno, c'era una canzone russa, Michele mi fa: guarda, questa canzone russa la cancella, è brutta. Però io poi ho detto: sì, ma se noi cancelliamo tutte le canzoni russe, anche brutte, e siccome che noi poi nel nostro database le canzoni brutte sicuramente ne abbiamo abbastanza, e poi alla fine finiamo per fare lo stesso gioco. E lei però giustamente ci ha riflettuto, in effetti ha detto: beh sì, in effetti c'è, però sta canzone è veramente brutta, allora magari la canzone in sé l'ho cancellata. Poi ho detto: ma magari facciamoci caso, cioè non è la canzone questa, canta in russo, cancello la, cioè, è brutto. E la stessa cosa mi sono reso conto di, relativamente a sta puntata di Simone Ortolani, che a un certo punto ho detto: vabbè, ma no, perché mi piaceva prima sta puntata, perché non mi deve piacere ancora adesso? E sentire magari il coro dell'Armata Rossa che canta l'Internazionale o che canta l'inno russo mi emozionava prima, perché non deve emozionarmi adesso? E poi è chiaro che ora ho un'opinione su quello che sta succedendo, ma la mia opinione non deve essere globalizzata o universalizzata a il fatto uguale tu sei così. E questo un po' rientra in un discorso che vorrei fare prima o poi, anche se mi servirebbe un po' di tempo magari per elaborare bene il pensiero, perché magari il mio pensiero ce l'ho, però è disordinato, scomposto, come succede sempre in tutte quante le mie trasmissioni, insomma, questo penso già lo sapete. E che vedo in una società come quella di oggi, così globalizzata, dove ha senso rispettare il senso delle comunità, dove ha senso magari rispettare anche le proprie identità, però forse non ha più senso la concezione di nazione in sé. Ecco, vorrei vedere un mondo diverso da questo punto di vista, e non soltanto perché quanto sono brutte le guerre, spero che finiscano presto. E non so se sono stato chiaro su questo concetto. E chi so questi, questi sono le pietre che rotolano. Gagliardi, sempre Gagliardi, con All the Rage, c'è stava, era quella che doveva partire prima, soltanto che l'hard disk, vabbè, è una cosa tecnica, cioè tutta la musica che va in rotazione costante è su un SSD principale, e quindi praticamente il contatto è istantaneo. Invece quest'altra musica è diciamo su un hard disk secondario abbastanza vecchio, che più passano le settimane più il suo tempo d'accesso alle informazioni è sempre più lento, e quindi praticamente, insomma, dovrò spostare anche questa musica su un altro SSD, insomma, più veloce, perché sennò diventa un po' un problema la mattina, in particolare quando sta lì: oddio, ma che mi devo funzionare, insomma, vabbè, un gran casino. E vabbè, lo sapete, insomma, come funziona, e se siete un minimo tecnologici. Francesco, giustamente, che tra l'altro ci ha linkato il fantastico l'orchestra egiziana che fallisce in maniera un po' pazza, diciamo, quando Putin è andato in Egitto, che tra l'altro fa molto ridere, abbiamo messo in OGM diverse volte, ma poi dovreste vedere il video, perché si vedrà proprio la faccia di Putin che fa ridere. Ci dice che giustamente si aspettava una canzone russa adesso, dopo questa dissertazione, ma il problema delle canzoni russe: hanno un grosso problema sulla ricerca del database. Prima di tutto bisognerebbe conoscere delle parole russe da cercare così e vedere a caso se usciva fuori una canzone. Poi hanno questo problema che loro scrivono, non legalizzano in caratteri occidentali, scrivono le canzoni in caratteri cirillico che il mio sistema non riconosce. Infatti, se vi è mai capitato di vedere il player di Runtime, quando passa una canzone russa o quando passava una canzone russa, c'erano tutti quei caratteri assolutamente strani che sembra quasi vulcaniano, insomma, diciamo così. In realtà è il sistema che non riconosce appunto il cirillico. E Walter invece ci dice che la politica è così, si punisce i popoli per colpire i leader che non vengono, di solito non vengono toccati. Esatto, insomma, questo è un po' un problema. Allora ragazzi, un'altra cosa che invece vorrei far notare, e che da una parte mi fa anche piacere, tutto sommato, anzi, perché tutto sommato? Mi fa piacere, perché significa che anche quando, voi sapete che quando è nato Buongiorno un cazzo, la mia idea era quella di non... neanche di pubblicarla, devo dire la verità, cioè nel senso di non metterla nei feed, una cosa che mettevo la live la mattina, mi registravo magari la puntata, la tenevo in archivio così, insomma, per qualsiasi motivo, buona ragione, che in teoria dovremmo fare sempre, in teoria ogni trasmissione live andrebbe sempre comunque registrata, anche per ragioni legali, perché comunque... va fatto e basta. Vabbè, comunque non lo facciamo, quindi il problema non si pone, anche perché tutto quello che facciamo poi finisce in podcast. Però qualcuno poi mi ha detto: vabbè, ma io mo la voglio sentire, e allora l'abbiamo messa su qualche feed, mi pare, non su tutti, non credo, credo che non sia su iTunes, che era poi l'obiettivo primario, insomma, non finire su iTunes, anche se Alex poi mi ha detto: ma mettila su iTunes perché così l'ascolto. Se la vuoi ascoltare, vai su un altro feed reader per una volta, insomma, non succede niente, no? Non è che bisogna ascoltare solo perché le cose ci cascano in bocca, insomma. Comunque, detto questo, e alla fine c'è qualcuno che ci ascolta. Ora, io non so chi sia questo Corigaci, se è qualcuno di voi che già mi ascolta, insomma, che magari partecipa anche alle chat, però insomma, fa comunque piacere il fatto che ci sia qualcuno che commenti su Spreaker, che è una cosa che oramai è, penso sia arrivata sull'orlo dell'estinzione, perché anni fa succedeva che qualcuno commentava su Spreaker, ma adesso veramente è una cosa rarissima. E vabbè, il primo commento è una critica, penso anche, diciamo, abbastanza sensata tutto sommato, anche se è molto sintetica, perché mi dice: non c'è movimento sciistico in Italia, stai scherzando? E questo è riferimento a una puntata che ho fatto diverso tempo fa, dove si parlava, insomma, del la puntata è la 6x16, cioè cioè sarebbe la 16ª puntata della sesta stagione. Ah no, ok, di K, no? Penso si sia sbagliato. Ok, questo messaggio è rivolto a me, perché ne ho parlato io del movimento sciistico. Però credo che si sia sbagliato e abbia praticamente pubblicato questa cosa sulla 16ª puntata della sesta stagione di The Nightmare, che si intitola Sta arrivando la tempesta. Infatti mi sembrava un po' strano, insomma, sta cosa della sesta stagione, quando è che ho mai fatto 6 stagioni di book. Comunque, se ovviamente è come dico io, hai ragione, perché io poi ho parlato nella puntata dei vari sport, dei vari movimenti, però poi è strano, perché in effetti qua sulla mail di Spreaker mi dice che ha commentato Book. Assurda sta cosa. E poi vai nella mail e c'è la puntata di Dota Nightmare. Spreaker, c'hai qualche problema, c'hai grosso problema. E parlavamo, insomma, dei vari movimenti sportivi. Adesso io non ricordo bene di che cosa ho parlato nello specifico nella puntata. Mi ricordo che ho fatto questo discorso sugli sport e ho messo di mezzo anche lo sci, dicendo che anche che insomma questi movimenti sportivi che vivono sul fatto che a un certo punto esce fuori magari il grande eroe, ricordiamoci il periodo di Tomba, no? Che vinceva tutti, allora tutti quanti eravamo interessati a quel tipo di sport, oppure la vela ad esempio, no? Quando c'era Luna Rossa, tutti infogliati con Luna Rossa, tutti esperti se no poi alla fine comunque lo sport in generale, tutto ciò che è al di fuori del calcio, vive diciamo di situazioni. Chiaramente probabilmente non intendevo, ma immagino che l'ho detto, insomma che in Italia non ci sia un movimento sciistico. Io penso che l'Italia per tradizione, insomma, avendo le Alpi, insomma, anche soltanto facendo un discorso di logica, abbia probabilmente uno dei più importanti movimenti sciistici a livello mondiale, e questo nessuno lo mette in dubbio. Adesso c'è anche una sciatrice, insomma, che io non conosco, perché sapete che non è una cosa che mi interessa moltissimo, lo sci, però insomma diciamo che quello che intendevo io è che il movimento, pur esistendo, pur essendo importante, a livello globale spesso e volentieri questi movimenti sportivi vivono del momento in cui c'è una sorta di picco, ecco, diciamo così, di momento importante, di personaggio importante, di grande campione che poi alla fine porta la gente ad andare verso. Ne abbiamo molto parlato anche quando eravamo Futuro. Carlo Sant'Agostino per esempio ha fatto riferimento al fatto che negli anni 70-80, quando sono usciti tutti quei cartoni animati sulla pallavolo, sugli sport minori dei giapponesi, no, che vincevano tutti, è statisticamente abbastanza provato e documentato il fatto che in quel periodo lì c'è stato un grandissimo aumento delle iscrizioni e quindi dell'innamoramento dei ragazzini verso tipi di sport che non erano il calcio, e questo ha portato anche a grandi successi. Anzi, Carlo Sant'Agostino sostiene che i successi italiani degli ultimi 20 anni a livello pallavolistico ad esempio è dovuto, insomma, anche al grande traino che hanno avuto questi tipi di cartoni animati durante quel periodo lì. E quindi vabbè, mi dispiace di aver comunque magari detto una cosa sbagliata, ma come vedrete subito dopo il brano ne ho detta un'altra di cosa sbagliata, e questa forse secondo me è anche più grave. I pulsanti che partono, va bene. Lo sapete perché adoro Mannarino io? Perché secondo me, a parte di altro, cioè, una canzone come questa, easy, cioè ragazzi, non so, parlate. Ah, io la trovo commovente. Cioè, secondo me lui prende la canzone romana e la estende, la modernizza, la contamina, ma c'è quell'estrazione, quel modo di raccontare le cose, che solo chi è innamorato di Roma lo può capire. Cioè, nel senso, chi. No, secondo me riesce a farlo capire anche verso l'esterno, però c'è proprio una tradizione, un modo proprio di utilizzare le parole, di raccontare la storia, di usare anche l'accento, il dialetto, no? Che prende proprio a mani basse da una tradizione importante, insomma, anche se magari non tanto conosciuta, e la estende all'ennesima potenza. Io, cioè, lo adoro, mi piace, cioè cazzo volete, non mi rompete le palle, insomma, se non vi piace andate ad ascoltare un'altra cosa. Comunque, allora ragazzi, veniamo alla puntata di Buongiorno un cazzo, la 28 della seconda stagione, sciagalli, sciagalli ovunque, che penso sia tipo l'ultima, può essere. Ragazzi, io qui ho fatto una cosa che, allora, faccio una premessa. Voi sapete che io vado molto a braccio, e andando molto a braccio vado anche a memoria, e la memoria a volte ci fa brutti scherzi, questo penso sia abbastanza chiaro. E in generale io ho costruito tutto un discorso su un falso storico, cioè su una cosa che in realtà non è, pur restando, cioè, funzionale, diciamo, il discorso che ho fatto sul Qatar e i mondiali, sulla democrazia, no? Però io a un certo punto dico, cioè, faccio un'affermazione relativa al fatto che noi abbiamo difeso il Qatar dall'invasione dell'Iraq. E ragazzi, io mentre che lo dicevo, e ancora fino a che non ho letto questo commento, per me era così, cioè io mi ricordavo questo, poi dopo vai a vedere, no, anche geograficamente, ma non è il Qatar che è stato invaso dall'Iraq, ma era il Kuwait. Ragazzi, io sta cosa l'avevo dimenticata, cioè ero dimenticato del Kuwait. Pensate voi come cazzo, è vero che sono passati tanti anni, era il 91, il 92, insomma, quindi sono passati 30 anni, quanti cazzo di anni sono passati? 20 anni? Boh, vabbè, non sono in grado, adesso mi commenterà che, come 30 anni? Comunque sempre coricaci, che ci lascia questo commento, che ringrazio, poi magari farti sentire, insomma, se vuoi una volta partecipare anche alle nostre dirette su telegram.me/dirette runtime, magari, insomma, interagiamo anche, perché comunque in effetti avere dei commenti così anche secchi, diciamo così, ti riportano anche un po' sulla retta via, anche perché tu quando fai queste trasmissioni, soprattutto se le fai a braccio, sei convinto in quel momento che stai dicendo cose, insomma, che hanno comunque in qualche maniera un senso, poi ti rendi conto che in realtà magari hai detto delle boiate, ci sta, perché anche se noi facciamo questa cosa non professionalmente, anche se comunque la facciamo con la passione, con l'impegno, questo poi non giustifica il fatto che uno deve dire cazzate, insomma, no? Soprattutto perché non si tratta di cazzate in termini di opinioni, perché ognuno può dire le opinioni che gli pare, però cazzate nel momento in cui tu dici che il Qatar è il Kuwait, insomma, certo, questa è un po' una cosa che devo dire la verità, ma un po' toccato, perché poi il Kuwait, cazzarola, era il Kuwait, ma poi c'è il Kuwait di cui io non penso non avrei più sentito nominare in 25 anni di vita, e quindi alla fine ci sono rimasto un po' così, insomma, devo dire la verità. In altri momenti l'avrei trovato anche imbarazzante questo errore. Oggi non lo trovo imbarazzante, ma trovo che sia corretto rettificare il fatto che ho detto una cazzata, cioè nel senso che comunque ci sta, insomma, ci sta. Magari fare come quelli che fanno finta di niente e ignorano magari il commento sarebbe stupido, no, da parte mia. Invece qui io preferisco fare in questo modo, perché so che è giusto, insomma, dare spazio anche alle persone che magari perdono anche il tempo lì a correggerti, a dirti guarda che hai detto una cazzata. Comunque questa persona, chiunque sia, se mi sta lì ha scritto un commento e merita. Ma se avesse detto cose belle, o se ha detto, ecco, questa cosa che mi fa notare magari la figuraccia che ho fatto, per me non c'è differenza, ha fatto bene. Dico anche un'altra cosa, che quando iniziammo nel 2008, nel 2010 con Michela, quando ricevamo delle critiche, senza aspettivamo subito, andavamo subito un puzzo, ah, questo perché questo è amico dell'altro podcast, quindi c'erano tutte queste cose così. Oggi, grazie a Dio, insomma, abbiamo una mente più matura e aperta per capire che, insomma, la critica è una critica e ci sta, insomma, non c'è assolutamente niente di male, e anzi, ti devo dire la verità, mi sento di dirti grazie per questo commento. Call it down. Unconditional con I Won't Let Go, questa carina canzoncina che viene sempre dal repertorio di Epidemic Sound e che insomma ragazzi prima o poi non mettiamoci l'anima in pace, anche perché in realtà non è soltanto il costo che di per sé insomma è ancora gestibile tutto sommato, è il fatto che il repertorio è più limitato di quanto possa sembrare e alla fine insomma saranno 300 i brani cantati che possono essere utilizzati e come questi che sono comunque ben prodotti, bella musica fatta carina e quindi anche accettabile, però purtroppo poi alla fine comunque il database è relativo, si finisce sempre per, mi sono accorto che si finisce sempre più o meno di scaricare, anche se ho trovato diciamo dei metodi di ricerca per arrivare agli ultimi scampoli di cose magari che non abbiamo ancora prodotto, cioè passato, che non abbiamo ancora suonato come si dice nelle radio, quelle serie. E comunque Svano mi chiedeva se qual era la, e Michela mi dice che lei seppure me lo voleva dire, che però poi si è scordata e vabbè dopo sono buoni tutti, dopo sono buoni tutti e, comunque scherzi a parte, e Walter dice non ricordo, sì in realtà io stavo parlando del calcio, dell'indice di liquidità e poi dell'ipocrisia nello sport, poi in generale nel mondo del calcio in particolare, su questa cosa insomma della Russia che non deve partecipare ai mondiali, però poi i mondiali si fanno in Qatar, che sono meglio il Qatar da Russia insomma. Tra l'altro mi diceva Michela stamattina che la Russia ha presentato la sua candidatura per i mondiali del 2028, cosa che vabbè non sarebbe stata penso accettata comunque, perché in Russia i mondiali si sono fatti recentemente, quindi ripresentare un'altra volta la propria candidatura è ridicolo, ma soprattutto penso che sia ovviamente una provocazione, insomma questi stanno proprio a fare i trolloni, non hanno capito insomma come funziona. Comunque sì, l'ho detto insomma quella cosa del Qatar, del Kuwait, l'errore l'ho fatto e me ne rendo conto, me lo ricordo anche in effetti, perché mi ricordo di averlo detto quando ho letto Kuwait, dice porca puttana il Kuwait, ma che ho detto, ma poi il Kuwait veramente me l'ero completamente dimenticato. Tra l'altro ritornando al discorso che ho fatto sul discorso della Lega Calcio, del fatto che l'iscriversi al prossimo campionato serve l'indice di liquidità, perché oramai hanno voluto far passare sta regola e poi come l'hanno fatta passare, che era proprio un atto di forza politica, poi già se la stanno acchittando in maniera tale insomma che sia compatibile con le squadre che poi devono iscriversi al campionato, perché altrimenti penso che la metà delle squadre non si presenteranno al prossimo campione di Serie A insomma. Comunque detto questo, mi stavo praticamente strozzando, ascoltavo Walter ieri sera insomma alle orazioni della sera in generale su OGM, ma anche leggendo questa mattina che praticamente ci sono dei problemi in Russia per non questa notizia qui nello specifico, ma insomma più nel generale, poi alla fine il discorso è sempre quello, che in Russia iniziano ad esserci i problemi per via delle sanzioni, no? Che comunque la guerra è durata più di quanto si aspettassero, che non pensavano di trovare tanta difficoltà nell'invasione, hanno cominciato ad avere un numero di perdite abbastanza importanti sia di uomini che di mezzi, e c'è ovviamente la notizia stamattina che pare che il rifornimento dei carri armati sia in difficoltà proprio perché per via delle sanzioni mancano i componenti insomma che costruisti sti carri armati. Io però mi domando e questa è una domanda che faccio seriamente a tutti, sicuramente tutte queste sanzioni, questi embarghi nei confronti della Russia avranno delle conseguenze abbastanza importanti relativamente alla loro economia. Sono abbastanza convinto che loro abbiano già normalizzato la situazione con un effetto tampone, cioè uno di quei provvedimenti che erano già evidentemente stati programmati ma che avranno una durata insomma relativa. Però mi domando, ma se veramente tutte queste notizie di queste condizioni così drammatiche insomma della situazione militare russa sono vere, o cioè se sono vere saranno sicuramente vere, quanto sono vere o quanto sono comunque caricate un po' dalla propaganda insomma, no? Perché comunque a un certo punto Insomma, se tu hai veramente delle difficoltà, ne prendi atto, ti metti seduto ai tavoli e cominci a trattare fin quando sei ancora nel gioco forza, perché se fosse veramente vero inizia ad essere anche un errore strategico, al di là del fatto di usare altre armi, perché vedo il tempo scrive quando la Russia utilizzerà le armi nucleari, e qui sarebbe da fare tutto un secondo capitolo che volevo fare, ma poi mi sono reso conto che mi sono allungato più di quanto prevedevo. Dice, ma io sta puntata vedrai non c'ho un cazzo da dire, ma come al solito forse chiacchierare, siamo arrivati quasi alla fine. Insomma, mi domando quanto poi sia un po' frutto anche un po' della nostra propaganda, no? Del nostro volerci raccontare, ah vedete l'abbiamo incastrati sti stronzi, maledetti, vedi adesso stanno, però penso che siano vere entrambe le cose, credo, in buona sostanza, perché sicuramente delle conseguenze ci stanno. Poi io vedo, mi domando, quando la tua scelta ideale, ideologica, politica e strategica ti mette in una difficoltà così tale, mi domando come fai a non renderti conto che anche se tu c'hai un alleato, la Cina, tra virgolette alleato, perché con la Cina non si sa mai, l'Iran e la Corea del Nord, beh insomma che alleati so, insomma no, alla fine tutto il resto del mondo è contro di te, prima o poi devi capitolare, cioè per ovvie ragioni, a meno che veramente non vuoi iniziare un processo che hai già iniziato nel modo sbagliato, perché non siamo più nel 1940. Oggi, come i russi stessi sanno, la guerra si fa in tantissime altre maniere e non è manco più sostenibile il fatto di fare operazioni che durano troppo, perché non è sostenibile economicamente, perché non esistono più quelle economie che sono profondamente statalizzate, dove uno Stato si indebita per fare una guerra e via dicendo. Insomma, ci sono tante cose che sono cambiate dal punto di vista proprio tecnico, tecnologico, ma anche dal punto di vista finanziario, per quanto magari a noi un certo tipo di modello possa anche non piacere, il modello globalizzato capitalista, comunque alla fine è un sistema che ha creato una sorta di cappello all'interno del, cioè, sopra il nostro mondo, diciamo così, e incrinare questo tipo di discorso sì crea un problema al sistema globale, ma crea inevitabilmente un problema più a te, insomma. E qui mi piacerebbe, insomma, che un giorno si incominciasse a ragionare con entità extranazionali, sovranazionali, ecco, come l'Europa, che tra l'altro ha trovato forse pandemia e guerra un motivo per incominciare a fare delle riflessioni più profonde, che era quello che noi pensavamo all'inizio di pandemia, poi diciamo, ah, ma tanto no, vedi, non è successo un cazzo. E invece secondo me qualcosa è successo, perché noi ci aspettiamo sempre dalla storia delle risposte immediate, mentre la storia ha bisogno di un suo tempo seminale che aiuti a sviluppare un concetto, e probabilmente questa situazione qua secondo me contribuirà alla costruzione di mega agglomerati, quindi diciamo tre blocchi fondamentali, l'Europa, l'America e l'Asia, che poi a secondo di come l'Asia ovviamente si sbilancerà aiuterà insomma a un equilibrio piuttosto che a un disequilibrio, perché è un po' questo, anche se comunque dicevamo che l'assenza di un URSS all'interno del panorama globale non permetteva, diciamo, un certo tipo di equilibrio dal punto di vista politico, perché chiaramente la NATO, l'America hanno comunque preso il sopravvento da un certo punto di vista, è l'unica fronte di resistenza da un certo punto di vista, ed è, l'ho ridetto tre volte, no? Posso dire da un certo punto di vista, era l'Europa, che era una sorta di frontiera di resistenza, soprattutto sull'invasione di quelli che sono i presupposti tecnologici, insomma, no? Tra l'altro ascoltatevi l'ennesima puntata di Data Nightmare uscita ieri mattina alle ore 6, sempre interessante, insomma. Poi la cosa bella è che Data Nightmare dura un quarto d'ora, cioè nel senso non è sta lì, oddio, devo sentire tutto il papadrone, sempre breve, conciso, ma con le informazioni, non cose come faccio io, che qui sto qui 40 minuti a parlare e non si sa che cosa. E vabbè, dai, questo lo volevo dire, insomma, questa cosa qui, cioè, che mi domando, comunque me lo domando quando vedo delle notizie, mi domando, sì, ma quanto è verità, quanto è propaganda, soprattutto in questo momento in cui e noi stiamo facendo proprio fronte da questo punto di vista, che è una cosa positiva, è una cosa che mi lascia perplesso, perché secondo me la verità comunque in qualche maniera deve sempre, se no poi alla fine fai lo stesso gioco che fanno loro, cioè loro raccontano bugie al loro interno e noi raccontiamo bugie a noi stessi. Vabbè, belli, belli, simpatici, ma dobbiamo andare a chiudere, ragazzi, perché mi sono accorto che, insomma, alla fine si sta a fare una certa, devo fare gli annunci, volevo anche leggere un po' quello che avete scritto voi, ad esempio Walter, secondo me è troppo presto per vedere gli effetti delle sanzioni, se i militari russi sono già KO dopo qualche settimana di invasione di uno staterello molto più piccolo di loro, sarebbe molto strano. Ma in realtà, guarda, tutto dipende un po' dalle condizioni territoriali, dalla capacità dei defenders, diciamo così, di approcciare. Ricordiamoci sempre il Vietnam, raga, che insomma non penso che il Vietnam era militarmente così attrezzato da rompere il culo agli americani, no? Però c'erano delle condizioni, cioè purtroppo poi alla fine questo si può dire come si può dire, non sono così esperto dal punto di vista strategico militare per poter sostenere. Comunque pure Siria, Bielorussia e pure qualche altro stato, vabbè, ma regalo, di che cazzo stiamo a parlare? Sì, è chiaro che c'hanno comunque degli alleati da un certo punto di vista, però insomma sto 100 punti di vista mi ha rotto il cazzo stamattina, scusa. Scusate del gergo, ma insomma non se lo fa sta storia. E quindi stiamo parlando sempre di entità relative, no? Cioè, nel senso, comunque, anche se poi non so se la Bielorussia ha appoggiato qualche arma nucleare sovietica, insomma, di qualche genere. Francesco dice: io spero che si inizi a ragionare con entità extraterrestri, ma prima o poi secondo me succederà sta cosa, non so se saremo noi o quelli dopo di noi, ma anche se poi qualcuno, quelli della Federazione Galattica di Luce, dice che già è successo, insomma. Tra l'altro ho letto delle cose deliranti l'altro giorno, ragazzi, spero di ricordarmelo per la prossima puntata The Book, perché ci voglio veramente fare un piccolino capitolino su questa cosa. Io sogno una Russia che entra nella UE per fare testa di ponte per un'eventuale Unione Euroasiatica. L'Unione Euroasiatica, che tra l'altro è teorizzata in tantissimi libri fiction sci-fi, insomma, diciamo che da controbilanciamento ovviamente all'America, insomma, diciamo così. Quindi alla fine sì, anch'io scrissi un racconto, tra l'altro, dove c'era l'Europa e l'Asia erano praticamente agglomerate. Allora, Francesco dice che lui vuole bene a Vannini, ma contrapporre anti-americanismo benaltrista, scusa, però io non te capisco, la russofobia, vabbè. Allora, facciamo così. poi ne parliamo, magari forse anche con Vannini, in modo che lo invidiamo e lo critichiamo, così almeno vediamo un attimo pure insomma quello che può tirare fuori, insomma, diciamo, da quelle che possono essere le nostre osservazioni, perché anch'io ho delle osservazioni, però è vero pure che diciamo le osservazioni che fa Vannini sono le stesse che faceva un anno fa, due anni fa, tre anni fa, cinque anni fa, che ricordiamoci che insomma Data Nightmare è arrivata la sesta stagione, quindi io ci vedo una certa coerenza di base, insomma, da questo punto di vista, e indipendentemente dal fatto che siamo d'accordo o meno, no? Però io devo dire che insomma nelle ultime puntate in particolare mi trovo abbastanza d'accordo. Comunque, dai ragazzi, abbiate pazienza, però veramente stanotte non ho dormito, ho cercato di fare una puntata su, ero addirittura indeciso, però poi dopo non si molla, ragazzi, non si lascia il posto vacante, non si lascia la trincea vuota, insomma, sempre qui a combattere sul pezzo, eh? Queste metafore bellissime in questo momento storico che insomma ci fanno sempre dignità e onore. Vabbè, dai ragazzi, scherzi a parte, io vi saluto, vi ricordo che questa sera alle 20 c'è Walter Sbano con le orazioni della sera e alle 21.30 ci siamo noi con la seconda parte della puntata dedicata alle radio, dove parleremo delle nostre esperienze e di quello che è stato il mondo radioamatoriale e della banda cittadina negli anni 70-80, che anche quello insomma è stato un periodo pionieristico dove insomma si giocava a fare i ricetrasmettitori, insomma, di notte a chiacchierare con gente lontana da noi e immaginarci insomma quello che poi alla fine ci siamo immaginati tante volte anche durante le chat, successivamente negli anni della tecnologia imperante di internet. Detto questo, vi ricordo invece che domani mattina torna Leo con il mattino all'ora in podcast, penso che ci sia un'altra puntata di Arcane, non lo so, mo vediamo insomma, però mo adesso che ti metti a fare le puntate di Arcane mi sembra un po', sei passato da un eccesso a un altro, anche se ricordiamo che sì, è bello, però che schifo. Te voglio bene Leo, tu lo sai insomma che c'ho sempre affetto, no, ma comunque al di là di quello mi piace magari che estendiamo questo concetto, sarebbe figo una volta invece farne proprio una puntata, no, proprio parlarne tra chi l'ha visto male, chi l'ha visto bene, perché comunque Arcane è un'opera che tecnicamente merita. Detto questo, vi ricordo sempre di andare su www.orantemeredio.it, cliccare sul pulsante anche io e sostenere il nostro progetto con una donazione, una tantum su PayPal oppure una donazione ricorrente su Patreon. Vi ricordo che poi ci saranno delle novità nel prossimo futuro, poi inizieremo a lavorare il sito per l'estate, insomma avremo un sito nuovo, insomma tante cose che succederanno e che vi vogliamo bene e che comunque ricordatevi sempre, cercate di stare al sicuro, cercate di usare la testa, leggete tanto, soprattutto i libri che vi fanno bene, vi aiutano a ragionare e soprattutto vi aiutano ad articolare meglio un po' il linguaggio, ma se potete insomma cercate di non arrabbiarvi col vicino di casa, col tizio, perché è da lì che purtroppo inizia questo atavico bisogno di avere lo scontro da parte del nostro genere, che dovrebbe essere quello elevato. Ciao a tutti e buona giornata, un cazzo a tutti.